I think we have to start by understanding what we are up against, what the problem is. The problem is that... Penso che dobbiamo cominciare comprendendo qual è il problema. Il problema è che l'elite globale, che era molto contenta del neoliberismo e della globalizzazione, ha deciso di rompere il sistema globale. Gran parte di quell'elite ha deciso che non aveva più bisogno di un sistema globale, che non aveva più bisogno dei trattati multilaterali, da lì la Brexit, che non aveva più bisogno del WTO, Trump sta cercando di distruggere l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e ha deciso di frammentare il mondo in grandi potenze in competizione fra loro, ma a livello nazionale continua a perseguire il neoliberismo. I call this neoliberalism or Thatcherism in one country. Io lo chiamo neoliberismo, in stile Thatcher, in un solo paese, come si diceva, il socialismo in un solo paese, ma al contrario. Quindi abbandoneranno la globalizzazione per intensificare il neoliberismo. Fra un minuto vi spiegherò cosa c'entrano le fake news e la disinformazione con questo argomento, ma l'arma generale per rompere il sistema globale è il caos. Il ruolo che l'informazione ha in questo campo è cruciale. Ci sono due modi. Il primo modo. Ho seguito con reportage molte rivolte tra il 2010 e il 2011, le primavere arabe, Occupy Wall Street, l'occupazione delle piazze in Spagna e in Grecia, la protesta di Gezi Park in Turchia nel 2013. In tutte queste rivolte, i mezzi di informazione hanno lavorato per noi, per la sinistra, per le persone, e questa era una grande sfida per l'elite. Quindi hanno creato armi da usare contro di noi. Innanzitutto hanno chiuso internet, ma non ha funzionato perché ad esempio in Egitto internet si è riversato per le strade. La seconda arma che hanno tentato di utilizzare è la propaganda ordinaria, ma non ha funzionato perché ormai abbiamo la capacità di scoprire le evidenze, di dire che quello che sostiene la propaganda è sbagliato, è una balla. La terza arma ha avuto più successo ed è stata la creazione di bolle chiuse e di convinzioni. Per fare un esempio, ho coperto la guerra a Gaza nel 2014 e mi sono reso conto che l'internet israeliano e l'internet palestinese erano completamente separati. Le informazioni, le conoscenze, i fatti erano completamente separati. La bolla è utile se vuoi mantenere una parte di persone a supporto delle elite, ma non convince l'altra parte. La quarta fase appartiene alla storia veramente recente di internet, che non è ancora stata scritta. La quarta arma è cruciale e avremmo dovuto aspettarcela perché le basi della teoria della comunicazione 1-1 ci dicono che il modo migliore per distruggere un network di informazione è il rumore. Il rumore impedisce la comunicazione. Nelle vecchie linee telefoniche, più c'era rumore, meno si riusciva a comunicare. Quindi la strategia finale e di successo delle elite è stata quella di infestare i social media con informazioni inaffidabili. Noi giornalisti abbiamo una dedizione professionale alla verità. Il fulcro del nostro lavoro è di dire: ho visto questo, ho verificato i fatti, ho scritto i nomi, dunque è la verità. Il fatto è che molte testate, compresa la BBC per cui ho lavorato, o il New York Times, molte grandi organizzazioni editoriali hanno un problema, perché il nostro nuovo lavoro è dire: questa è una bugia. E molti media mainstream rifiutano di dire: questa è una bugia. Finché continueremo a farlo, staremo cedendo la nostra affidabilità, la nostra presunzione di onestà e le nostre regole professionali a coloro che vogliono diffondere bugie.